amici colatino, questa è Radio Desperados che canta come va Cuba oggi. Bomba, te lo dico con in bocca una tromba. Vado, andale, andale, andale. Questa base mi fa cantare più di chi ha spiato Rina, mentre mi faccio di eroina, quindi come non aver detto niente, capo. Sì. Bombe, bombe, bombe su Baghdad. Inferte una ferita al mio corpo, aia. Cazzo, sono come una mitraglia che spara al scemo di guerra. Forrest Gump. Mitraglio tutti sti deficienti, anche se un po' li sento dentro, siamo coerenti, questo intelletto. Il mio pensiero che ti possa dare è non pensare, ma almeno abbi un po' di intelletto, che non vuol dire pensiero, vuol dire cogliere, saper scegliere ciò che dire, scegliere di dire o non dire una cosa perché porterebbe a una circostanza infruttuosa. Quindi facciamo la pace, non c'è molto da capire, meno pericolo per tutti, per così dire. Cavalco un cavallo Titan 3, beh, ci sono problemi se fanno la fila nel letto per le mie canzoni d'amore. Non vedo il perché tu debba avere le orecchie tappate dal tuo tipo 24 ore su 24. Verso noi artisti, rappresento Ground Zero, rappresento la mia terra. Ground Zero, la mia terra, così il nome che gli ho dato. Anzi, Rockstar Ground Zero, come quello della canzone. E non è un'opinione che più di qualcuno che sia lì a lavorare sarà il prossimo Slim Shady o il prossimo Fango, non lo so, ma lo vedo strano, storpio, non cerco, non capisco chi. Scusa, non ho capito chi è meglio di me. Saramo in queste rime, sono formidabile. Vinco pure a parole, abile a sfondare muri senza porta, a sfondare cicatrici della mia gamba stavolta. Per i tagli della coca, per i tagli della coca. E per i tagli vorrei una bionda da che me li possa leccare. Ho più tagli dentro che dopo tutta la guerra che mi hanno fatto. Scopro ancora come qualcuno sparli di me, della mia signora e delle mie ex. Dovreste stare tutti zitti per come le ho trattate. Una sola parola di più mi è uscita dalla bocca e nient'altro. Ma un amore perfetto, less than perfect. Mettiamoci sulle attenti, la signora sai cosa doveva fare? Doveva andare a lavorare, ha detto. E poi non l'ha più sentita chi? Chi l'ha sentita dopo? E perché? Amici di chi? Chi? Vorrei sapere di chi. Per un solo errore sono andato a finire all'equatore con la testa. Baby, è solo superato la linea. Resta ancora lì un po' a lavorare e fai fare al rap chi lo sa fare. E le mie ex vanno tutte bene, sapete? Sì. E non c'è stato niente di sbagliato in questo. Qui rimango qui ad osservare l'immenso amore che ho provato con loro. È questo di cui mi voglio ricordare ancora per il resto della vita, un immenso amore passato e ricordato con loro o chi per loro. L'artistico era la mia vera casa. Dovevo studiare l'artistico invece che lo scientifico. Prendo in mano e straccio il mio diploma e ne scrivo un altro con un nome. Professore, mi dia un voto. Guarigione, il prof d'artistico deve darmi un voto.